dice: non t'amo più. Forse invece sarai tu la stagione. Dell'amore è già finita, sai. Sciolgo le mie dita e la tua mano impaurita mi domanda che farai. Ma è proprio vero che son io quel pazzo che ti dice addio. Ma è proprio vero che oggi me ne andrò via da te. Il giardino vita sembra ferma, invece va. Piccola foglia addio, è inverno sai, è a primavera quando ti strappai. Non c'era il vento e invece adesso c'è. Fra di noi la stagione dell'amore. La vita sembra ferma, invece va. Piccola foglia, addio, è inverno sai, è a primavera quando ti strappai. Non c'era il vento e invece adesso c'è. Fra